Salva Danaio di Deborah Rosciani. Oggi parliamo di sanità, rubiamo un tema, la nostra Nicoletta Carbone, l'autrice di Essere e Benessere, però noi parliamo di sanità portata di portafoglio, un tema che abbiamo già toccato in passato e abbiamo inevitabilmente percepito l'enorme interesse da parte delle famiglie che ci ascoltano. Famiglie che a volte sono costrette a destinare molte risorse del proprio bilancio alle spese per visite specialistiche. Io dico purtroppo, qualche volta lo facciamo in via preventiva, ma altre per stretta necessità e sarebbe meglio non averne mai bisogno. In una trasmissione organizzata lo scorso gennaio abbiamo raccontato di come stiano nascendo in diverse città strutture poliambulatori che permettono di avere visite specialistiche a costi piuttosto accessibili. Voi pensate alla batosta del dentista, è inutile che ci nascondiamo dietro ad un dito, lo sappiamo che è così, lo sanno anche gli stessi professionisti. Entrare in un ambulatorio dentistico richiede per qualcuno la contestuale visita in banca a chiedere un prestito o a volte anche la rinuncia radicale alla cura, alla prestazione. Ecco perché c'è una grande curiosità intorno alle strutture che invece sono già state ribattezzate strutture sanitarie low cost, che appunto, vi ripeto, garantiscono delle prestazioni e dei prezzi calmierati, ma la curiosità nasce anche intorno al livello dei professionisti che vi operano. Ci si chiede che tipo di professionalità ci sono, come mai ci si possa permettere tale risparmio, visto che a volte si gravita anche per esempio intorno ai 60 euro per visita, poi magari vedremo quali tipo di visite hanno un prezzo di questo tipo. E allora oggi ci faremo raccontare come funzionano questi centri e torneremo anche e soprattutto a focalizzarci sulle visite odontoiatriche, perché già il mal di denti è uno dei dolori più insopportabili in assoluto. Quando poi si deve mettere mano al portafoglio per curarsi, i dolori triplicano. Allora, stamattina con noi Andrea Cinosi, presidente di Assolo Coste, che saluto. Dottor Cinosi, benvenuto a Salva Danaio, buongiorno. La ringrazio, buongiorno, e buongiorno ai radioascoltatori. Perché a questa organizzazione appunto aderiscono proprio alcune strutture di questo tipo, ma Assolo Coste ne riunisce anche altre operanti in altri settori, per cui ci faremo raccontare che cos'è la filosofia di questa organizzazione e soprattutto poi applicata al tema della sanità. Maurizio Pedone, dottor Maurizio Pedone, fondatore, ideatore, titolare, gli abbiamo dato tutte le cariche possibili ed immaginabili, in ogni caso ha attivato da un paio d'anni a questa parte, dottor Pedone. No, dal 2007, quindi sì. Un po' di più, questa organizzazione che si chiama Amico Dentista. Noi peraltro adesso, molti ascoltatori ovviamente un po' maliziosi diranno, e vabbè, gli fate pubblicità durante il palinsesto, per cui è chiaro che ve li siete portati in trasmissione. La nostra curiosità nasce da ben altro, parlando dei soldi delle famiglie. Questa è una voce di spesa molto spesso molto importante nel bilancio familiare, per cui ci piacerebbe poi capire come permettete un risparmio anche molto significativo alle famiglie che vengono ad usufruire del vostro network, lo chiamiamo così, le piace? Sì, sì, mi piace. La rete, una bella rete di professionisti appunto che ci mettono a posto la bocca quando è necessario. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, le vostre curiosità su questo tema. So che vi scatenerete perché è già successo in passato. Potete anche scriverci al 349 238 6666. Sulla borsa vado via rapida perché abbiamo già dato delle anticipazioni nel giornale radio. Dopo i ribassi di ieri, stamattina i listini europei erano ripartiti con un umore migliore, ma già Francoforte lo ha abbandonato e torna a perdere lo 0,26%, mantiene un modestissimo rialzo Londra, più 0,22%, Parigi sulla parità, tocca e non tocca lo zero, ma sta scivolando anche l'istino francese, un po' più resistente Milano, che guadagna lo 0,8%. Sul FTSE MIB i migliori titoli: Fondiaria più 3,35 Unipol, più 3,22 Exor, più 2,56 Unicredit, più 1,93. I peggiori: Buzzi, Unice e Medansaldo perdono l'1,7%, CIR meno 0,9, Terna meno 0,8. Rispetto a ieri, vistosissimo recupero dell'euro sul dollaro, stamattina di nuovo sopra la soglia di 1,24, adesso un po' di marcia indietro a 1,23,54. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di sanità low cost. Pareri legali in negozi, consulenze di architetti per arredare o ristrutturare la propria casa sul web. Dopo viaggi, hotel e vacanze, la filosofia del low cost sta coinvolgendo sempre più professioni, comprese quelle sanitarie. Dopo gli ambulatori, in cui è possibile effettuare visite specialistiche, esami del sangue, controlli oculistici, evitando liste di attesa infinite e costi esorbitanti, anche l'odontoiatria si è attrezzata per offrire prestazioni a prezzi scontati. Alcuni studi dentistici hanno adottato anche in Italia un sistema di risparmio intelligente per il paziente, spinti anche dalla crescente concorrenza straniera, in particolare quella proveniente dai paesi dell'est, spesso mete di vere e proprie vacanze odontoiatriche. Certo, siamo ancora lontani da realtà come la Gran Bretagna, dove è possibile farsi otturare una carie tra le corsie di un supermercato, ma a circa un anno di distanza dalla nascita delle prime realtà, i numeri sembrano decretarne il successo. Le ragioni sono molte. Da un lato, le liberalizzazioni Bersani hanno consentito a molte professioni di gestire più autonomamente la propria attività, compresa dunque la scelta delle tariffe da applicare. Dall'altra, la crisi degli ultimi anni ha inevitabilmente orientato le scelte dei risparmiatori verso un maggior risparmio. Non mancano però gli scettici che, associando al concetto del low cost quello di basso servizio, preferiscono mantenere le vie tradizionali, specialmente quando si tratta della propria salute e del proprio benessere. 800 24 00 24, vedo già molti ascoltatori pronti ad intervenire, qualcuno anche pronto ad esprimere le proprie perplessità rispetto a queste organizzazioni, perché magari se lo recuperiamo Gaia mi pare interessante poter sentire quello che vorrebbe dire Stefano da Torino, che dice: attenzione che qua, usufruendo di questi servizi, i clienti ci perdono, perché comunque ci lavorano medici che fanno pratica, poi sentiremo se è così o meno. Dottor Cinosi, allora io comincio con lei. Nella nostra scheda Gaia Romani, che l'ha preparata ieri, ha parlato, mi è piaciuta molto questa definizione di sistema di risparmio intelligente. Sì, assolutamente sì, perché in realtà il low cost accomuna aziende appartenenti a diversi settori produttivi. Il fil rouge che appunto hanno in comune queste aziende sono la ricerca di ottimizzazione di costi che non riguardino la qualità essenziale dei prodotti o dei servizi. Faccio un esempio: il tema di oggi è sulla sanità low cost e in particolare sulle cure dentistiche. Noi ci aspettiamo assolutamente una professionalità elevata da parte del dentista odontoiatra. Ci aspettiamo una qualità del servizio complessivo in termini di tempi, in termini di rapporto personale con il paziente e di trasparenza elevati, e ci aspettiamo un'elevata qualità dei materiali. Però in realtà sul prezzo finale che viene predicato al cliente incidono tutta una serie di voci che non riguardano la qualità essenziale. Ecco, ottimizzare queste voci significa rendere un servizio di elevata qualità e far risparmiare. Anche perché credo che in questo momento economico, che è piuttosto delicato, dura da 3 anni, io dico anche che o si viene in qualche maniera incontro alle famiglie o comunque insomma si arresta un circuito economico in termini generali, quindi la situazione diventa un po' preoccupante per tutti. Non si capisce perché quando una famiglia è in difficoltà non la si debba aiutare, visto che comunque presso le strutture pubbliche si fa un po' di difficoltà ad andare, non tanto per questioni qualitative quanto per questioni di tempo, perché insomma prenotare una visita dal dentista usufruendo delle strutture pubbliche in certe città praticamente significa rimandare questa visita a chissà quale momento dell'anno. Se la si prenota oggi magari si viene ricevuti non lo so fra 6, 8, 10 mesi. Comunque, dottor Cinosi, quali strutture legate all'odontoiatria aderiscono alla vostra associazione? Perché non ce ne sono moltissime e quindi siete aperti, e soprattutto che cosa è necessario fare per poter aspirare ad un'iscrizione ad Asso Low Cost? Allora, attualmente aderiscono ad Asso Low Cost solamente 2 strutture, che sono appunto Amico Dentista e Progetto Dentale Apollonia. Anche c'è una terza struttura che è il Centro Medico Sant'Agostino, sì, a Milano, che eroga visite specialistiche e anche visite odontoiatriche. Abbiamo già avuto il dottor Luciano Balbo, che lo ha fondato appunto a Salvadanaio proprio lo scorso mese di gennaio. Infatti, ecco, però la mia sensazione è che noi stiamo ricevendo ulteriori richieste di ammissione e che ci sia una tendenza ad estendere a livello nazionale questa nuova impostazione dell'approccio proprio a rendere i servizi sanitari. E questo è molto positivo, e lo è ancora di più per l'impostazione che abbiamo dato ad Asso Low Cost, nel senso che l'ammissione in Asso Low Cost non è automatica sulla base della domanda. Noi ciò che rileviamo sono 3 elementi. punti. Uno è sicuramente il prezzo, perché per definirsi low cost di qualità occorre che il prezzo praticato in questo caso per le prestazioni sia inferiore alla media di mercato di una percentuale significativa, quindi abbiamo spesso sul 30-40% in meno, e che questo sia rilevabile nel corso dell'intero anno, quindi che non si tratti di una promozione commerciale. Un secondo elemento che ritengo fondamentale è relativo proprio alla qualità, cioè le strutture che fanno domanda di ammissione vengono sottoposte ad un'analisi da parte di società esterna, che è Databank del gruppo Cerved, che analizza quali sono le aree in cui vengono attuati i risparmi di costo. Questo proprio per verificare che i risparmi di costo non vengano attuati sulla qualità dei materiali oppure sulla professionalità, diciamo, di chi eroga la prestazione. Sentivo prima appunto delle obiezioni rispetto all'utilizzo di medici che fanno pratica. Abbiamo poi questo ascoltatore e lo faremo argomentare un po' meglio la sua riflessione, dottor Cinosi. Sì. Questo quindi per noi non deve avvenire. Il terzo punto che riteniamo fondamentale è un principio di etica, nel senso la riduzione di prezzo deve essere conseguenza dell'ottimizzazione di processi, non deve intaccare la qualità essenziale da offrire ai clienti e deve essere realizzata nel rispetto dei più elevati principi di responsabilità sociale d'impresa e di rispetto dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Niente a che vedere allora con politiche commerciali straaggressive che mirano solamente a strapparsi i clienti tra un'azienda ed un'altra. Allora, dottor Maurizio Pedone, ci faccia un po' conoscere come funziona la rete di Amico Dentista. Buongiorno innanzitutto a lei e agli ascoltatori e buongiorno a dottor Cinosi, che sento sempre molto volentieri. Buongiorno, altrettanto. Allora, la rete di Amico Dentista nasce nel 2007 da un libro, dalla lettura di un libro, come spesso le grandi idee nascono da un libro, voglio dire il capitale, però questo nasce da un libro che è La fine del ceto medio, la nascita della società low cost di Massimo Gaggi e Edoardo Narduzzi. E loro descrivono quello che poi sarebbe stato il futuro dell'evoluzione della capacità di spesa della famiglia italiana, e non solo in realtà di quella italiana, della famiglia europea. Quindi una minor capacità di spesa, ma soprattutto una maggior attenzione a ciò che si compra. Quindi non solo spendere meno, ma soprattutto comprare meglio. Quindi un'idea che arriva, come dire, a una matrice intellettuale, se vogliamo, ma lei stava notando anche un po' meno clienti al suo ambulatorio, dottore? No, assolutamente, assolutamente. Immaginavo, avevo una prospettiva di diminuzione della pazientela, mi consenta, mai clienti, pazienti. Fa una differenza sostanziale, perché noi medici curiamo delle persone da cui traiamo un lecito utile. Poi ci sono invece gli abusivi, ci sono anche i commercianti che vendono qualche cosa da cui traggono un guadagno. Questo fa una differenza, che noi innanzitutto curiamo qualcuno e poi ne traiamo quello che è l'utile lecito. Allora, da questa idea è nata una osservazione, quella del fenomeno del turismo odontoiatrico all'estero. Abbiamo molte testimonianze pronte ad essere raccontate. Ma su anche questo favorevoli, eh? Io in studio comunque ricevo e visito pazienti che sono stati all'estero, qualcuno contento, qualcuno meno, ma tendenzialmente soddisfatti. E quindi siamo andati all'estero a verificare qual era il livello, che comunque è discontinuo, non tutti i centri dell'estero danno risposte terapeutiche adeguate, e ci siamo resi conto che in effetti l'offerta era tale per cui il paziente spendeva meno, ce n'era. E quindi ci siamo chiesti: possiamo noi riuscire a fornire un servizio adeguato, delle prestazioni adeguate, a un prezzo che sia concorrenziale con quello dei paesi dell'est? A che cosa avete rinunciato quindi? No frillis, Fronzoli, non abbiamo rinunciato a niente. Abbiamo ottimizzato le spese, quindi anziché comprare un tot impianti ne abbiamo comprati 1000 tot, anziché dare un certo percorso terapeutico con un certo tempo al paziente, abbiamo razionalizzato sulla base di studi aziendali il percorso terapeutico del paziente, che poi alla fine il paziente, se anziché venire 20 volte ne viene 8 e più contento, perde meno tempo, perde meno ore di lavoro, sta più in famiglia. E abbiamo razionalizzato i processi, vorrei dire industrializzato, non è vero, ma abbiamo razionalizzato i processi terapeutici ai pazienti. Questo ci ha ridotto fortemente i costi, anche perché è notorio che quando si fa un gruppo d'acquisto E così abbiamo fatto, noi riusciamo a comprare i materiali, le protesi, che poi rappresentano forse la Avete applicato quindi il modello dei GAS, sì. Dei gruppi di acquisto solidale. Esatto, più o meno sì, sì. Ecco, ci fa qualche esempio su che tipo di risparmio può essere praticato per una prestazione che viene fatta in uno dei vostri ambulatori, nei vostri studi? Tra l'altro, se ci può ricordare anche dove siete, poi daremo anche il numero verde per poter usufruire di informazioni che sì. riguardano la vostra attività e quindi magari poter venire a fare una visita, perché credo che la prima sia anche gratuita, no? Si la può prima fare un è gratuita. Primo, ecco. La prima è gratuita e corredata di tutte le attività diagnostiche gratuite, quindi anche la panoramica è gratuita, la facciamo noi, abbiamo dell'attrezzatura digitale di primo livello, la facciamo noi, questo ci dà anche una miglior definizione, una miglior qualità, una continuità, facendole sempre con le nostre macchine, siamo abituati a avere delle risposte più continue. Allora, prestazioni, noi siamo incentrati molto sull'impianto protesi che secondo noi è la richiesta di questi ultimi anni, si passa dalla dentiera alla protesi fissa perché oggi l'implantologia permette un'ottima riabilitazione protesica appunto con problemi di costo. Diciamo che un dente su impianto da noi viene 1.210 euro, quando invece, come dire, il prezzo di mercato, mi passi il termine, quanto potrebbe essere? Doppio, grosso modo il doppio, grosso modo in Lombardia quantomeno grosso modo il doppio. Quindi abbiamo, diciamo che tendenzialmente noi applichiamo una media tariffaria che è inferiore del 40% alle medie tariffarie di mercato, non mi piace dire mercato, comunque praticate in zona, e circa del 20% più alte di quelle praticate nei centri dell'est. Allora, i vostri studi sono adesso in provincia di Varese, Como, Milano, cioè avete uno studio a Saronno, sì. quello che dirige lei se non sbaglio, sì, con sì, prospettiva sì. di ampliare la vostra rete di attività? Ma guardi, questo nasce un po' come un cenacolo, ecco. Nasce come un cenacolo, quindi noi ci conoscevamo, siamo tutti delle pantere grigie, cioè quasi calve, pantere calve, no? Pantere grigie, siamo tutti oltre cinquantenni, ci conoscevamo, abbiamo costruito questa idea insieme, l'abbiamo costruita trovandoci a cena la sera una volta a settimana, quindi uno studio a Figino Serenza, uno a Saronno, uno a Varese, due a Milano, uno in provincia di Bergamo e uno in provincia di Brescia. No, le ho fatto anche dire le città, perché anticipo già ai nostri ascoltatori che siccome sembra che tutti questi modelli virtuosi anche sì. di strutture sanitarie low cost, era uscito fuori questo discorso anche in gennaio, siano particolarmente concentrate al nord Italia, poi vi racconterò anche l'esperienza di un medico di Catania che sta tentando di avviare un'attività di questo tipo, per cui è evidente che anche al sud c'è grande fame di servizi di questo tipo, a tariffe, chiamiamole così, calmierate, più abbordabili per le famiglie. Intanto cominciamo a sentire i nostri ascoltatori. Allora, quello che esprimeva grande perplessità sul funzionamento, sulla professionalità delle figure che operano in questi centri è Stefano da Torino. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Salve. Sì. Sì, no, volevo dire, ho ascoltato adesso il collega, in effetti il suo ragionamento è corretto, nel senso che necessariamente si deve andare incontro a una collaborazione tra colleghi per ottimizzare i costi, per ridurre le spese operative. E quindi fa un ragionamento molto corretto, perché purtroppo fare il dentista in Italia è carissimo per il paziente ma anche per noi, perché le spese sono elevate, sono sempre più alte, le tasse e soprattutto i mal di pancia sono notevoli, perché un professionista che ha a che fare con la bocca di un paziente deve garantire la massima garanzia del lavoro, perché è una cosa molto delicata, con la massima professionalità, e purtroppo è questo costa fatica, perché chi ascolta forse non si rende conto quanto fare il medico dentista sia faticoso e sia impegnativo. Ma lei come valuta il lavoro di questi centri, come in qualche maniera una sorta di concorrenza sleale nei suoi confronti? No, Stefano, no, lei mi pare che sia un dentista, no? Sì, quello che volevo, l'accento su cui volevo dire è questo, che alcuni centri bisogna fare attenzione che non facciano lavorare praticanti dentisti, cioè medici o odontoiatri appena laureati, che per spese veramente irrisorie, perché a me sono arrivate all'orecchio di cifre veramente ridicole, e poi d'altronde essendo io medico ho sperimentato anch'io questa cosa, appena laureati qualunque lavoro venga, ben venga, certo. Però insomma pure sottopagati. Quindi anche il collega che poco fa ha parlato, sicuramente lui conosce episodi di questo tipo, sono tantissimi, quindi però mi sembra che, quindi vorrei solo sottolineare l'importanza del paziente, a volte però per lui stesso è difficile, valutare la professionalità e la validità di queste cose. Quindi vengano, ripeto, i centri in cui colleghi con anni di esperienza, come il collega cinquantenne, però uno studio e collaborazione, che può andare incontro al paziente riducendo le spese. Benissimo. Infatti, Stefano, però le dico, no, io ho colto perfettamente le sue osservazioni, le giriamo anche ai nostri ascoltatori per fare attenzione anche ovviamente alla struttura a cui si rivolgono. Detto questo, lei avrà pur cominciato una volta nella sua vita la sua professione, sarà stato, come dire, un professionista che usciva dall'università e quindi avrà iniziato, anche queste persone devono iniziare in qualche maniera, l'importante è che siano seguite dalle professioniste giuste appunto nella struttura presso la quale operano, io dico questo, Stefano. Comunque grazie molte. Dottor Cinosi, voleva intervenire su questa osservazione fatta dall'ascoltatore, perché questo magari può valere per la sanità così come per tutte le altre aziende affiliate e aderenti ad Asso Low Cost. Guardi, assolutamente sì, do ragione in generale al signor Stefano da Torino rispetto all'esigenza di garantire la qualità. Noi siamo nati proprio per questo, non a caso possiamo tutti immaginare che in Italia chi propone tariffe convenienti nei vari settori sono molti gli operatori, mentre attualmente a solo cost ha 20 associati perché effettuiamo una forte selezione. Ecco, detto questo, tornando al campo delle visite e delle cure dentali, in realtà noi abbiamo inquadrato degli ambiti dove possono essere realizzate delle ottime ottimizzazioni di costo. In particolare, uno dei costi maggiori che hanno, diciamo, i dentisti è il costo dell'odontoiatra, quindi già ottimizzare o attraverso gruppi d'acquisto o avendo all'interno come personale assunto queste figure professionali. Cinosi, qua abbiamo Pedone che è pignolissimo, l'odonto tecnico, non l'odontoiatra, ecco. No, leggevo sì, tra l'altro, che adesso, come dire, per ottimizzare, per esempio, con la voce di costo, si preferisce assumerne uno fisso in studio piuttosto che prendersi dei professionisti esterni? Al contrario. Sì, assolutamente, questa, diciamo, è una possibilità. Poi consideriamo tutti i risparmi, come diceva correttamente il dottor Pedone, che si possono realizzare sul materiale monouso organizzando gruppi d'acquisto. Evidentemente ci si trova a pagare dei prezzi nettamente inferiori e quindi si può riversare il beneficio sul cliente. Lo stesso vale ad esempio per il possibile ammortamento delle poltrone piuttosto che per le forti sinergie di marketing e promozione. Quindi sono tutte aree che non hanno nulla a che vedere con la qualità e laddove ci siano anche professionisti più giovani, anche se non neolaureati, l'importante è che sussistano dei protocolli governati comunque da o primari ospedalieri o comunque dei medici dentisti. Poi insomma, se ci mette in mano, se ci mette in bocca, se ci viene messa in bocca una mano ovviamente di una persona che non è professionale, io penso che siamo anche in grado di potercene accorgere, speriamo perlomeno. E invece, dottor Pedone, molti ascoltatori, non riesco a leggere tutti i messaggi ma ce ne sono tanti dello stesso tenore, chiedono come poter fare della prevenzione corretta e anche delle cure per i bambini, per esempio. È chiaro che in questi centri seguite anche i più piccoli, ma magari per qualcuno che abita in città, che di questi servizi non sono, dove questi servizi appunto non sono disponibili, come li aiutiamo queste famiglie? Beh, speriamo che questi servizi si rendano presto disponibili e che si possa continuare a erogare servizi adeguati a tariffe basse, perché c'è il rischio che si ripristino le tariffe minime, che sarebbe una grave iattura. E l'unica è andare a informarsi sul web. Il web rappresenta oggi, avendo tempo e capacità e voglia, un ottimo servizio di informazione, permette di confrontare le offerte, quindi non soltanto per i voli low cost ma anche per l'odontoiatria. E comunque la prevenzione è una delle nostre fissazioni. Infatti direi che si deve proprio soprattutto per la bocca cominciare davvero. Ma guardi, secondo me la prevenzione è un investimento per noi, è un investimento per il paziente. Io faccio sempre la solita battuta al paziente, dice: vede questo rotolino di filo interdentale, costa 4,50 euro, lei è il miglior investimento che può fare, se lei userà da adesso in poi il filo interdentale arriverà alla fine, avrà risparmiato 50.000 euro, infatti, altro che bond. Mi sembra veramente di essermi vestita da Nicoletta Carbone, ecco. Abiti nei quali non entro perché lei è molto magra, però insomma stamattina stiamo facendo un po' i salutisti, un po' i medici e un po' soprattutto anche continuiamo a guardare il portafoglio. Allora Paolo da Milano, buongiorno, la sua perplessità che interpreta quella di molti altri ascoltatori ce la dica rapidamente, grazie. Pronto, buongiorno. Allora, prima di tutto voglio fare una premessa. Ho sentito là il dottore lì di Torino, io sono un odontotecnico, sono 30 anni che faccio questo lavoro e sono 30 anni che sento i medici o i dentisti piangere miseria, 30 anni e tutti hanno ville al mare, lasciamo stare, che a questi ci pensa Tremonti Paolo, lasciamo stare, va bene. E poi volevo dire, loro predicano bene ma razzolano male, perché ad esempio io so di molti studi, lo saprà anche il dottore Linstu, che mandano i lavori in Slovenia, in Ungheria, in Turchia, addirittura in Cina, dove praticano dei prezzi assolutamente impossibili per noi tecnici italiani, perché se l'oro a me costa 20 euro al grammo, costerà anche in Cina l'oro 20 euro al grammo, no? E come fanno? Prendono questi prodotti e certo poi risparmiano su questi, mandano i lavori in Cina, producono a ritmi cinesi evidentemente, certo. E poi volevo dire un'ultima cosa che molti non sanno, che fino a 14 anni la regione Lombardia offre servizi gratuiti ai bambini, vanno nei centri specializzati, fino a 14 anni i bambini non pagano un centesimo. E questo molte persone non lo sanno, glielo posso assicurare. Benissimo Paolo, grazie allora anche per le sue informazioni. Ci metto insieme anche la domanda di Guido da Udine rapidamente, così poi facciamo rispondere al dottor Podenio tutte insieme. Poi andiamo a Catania dal dottor Ruffino, che ci racconta anche la sua esperienza di avvio proprio in queste settimane di un centro low cost. Guido, rapidissimo, grazie. Buongiorno, io sono rapidissimo. Io sono cliente di uno degli studi da voi citato, cioè il progetto Apollonia da 3 anni così. Devo dire una cosa, cioè low cost non significa assolutamente, almeno dalla mia esperienza, abbassamento di qualità, perché alla fin fine io mi sono trovato a vedermi offrire dei servizi o comunque un'impostazione del lavoro nel complesso che i precedenti dentisti professionisti individuali, cioè di tipo tradizionale, assolutamente non avevano fatto. Faccio un esempio banalissimo: alla fine del lavoro mi è stato consegnato un pezzo di carta scritto dove c'è scritto garanzia. Io la prima volta che ho visto una garanzia sul lavoro fatto. Non esistono tempi di attesa o perlomeno sono del tutto accettabili. E questo, devo aggiungere un'altra cosa. Questa iniziativa, come l'altra che state citando, mi sembra lodevole e mi sembra che però dalla categoria dei dentisti venga presa un po' male, nel senso che a me personalmente altri dentisti ne hanno parlato male di questa iniziativa. E Guido, quando arrivano le grandi rivoluzioni, che partono ovviamente dal basso, è chiaro che infastidiscono un po' tutti, però insomma a noi questo non interessa, la polemica, l'importante è che la gente sappia che guardandosi intorno trova tutto ciò che fa al proprio caso, ovviamente anche spendendo in maniera ragionevole. Fra un po' concludo col dottor Pedone, ma volevo andare a sentire l'esperienza del dottor Ruffino, che stamattina mi ha scritto molto presto una lettera molto bella, sapendo che avremmo fatto questa trasmissione, perché stiamo parlando di queste strutture che sembrano proliferare al nord, ma al sud fanno un po' più fatica. E allora si sta partendo a Catania. Dottor Ruffino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, ai colleghi e a tutti i radioascoltatori. Ci racconti tutto, se ce la fai in un minutino, dottor Ruffino. Non è molto semplice. Lo so, però l'importante è che raccontiamo agli ascoltatori che a Catania anche questa filosofia della cura odontoiatrica low cost sta partendo. Sì, sta partendo, è un'idea che è venuta a me un annetto fa grazie a un collega di Varese, che ha il dottor Giordano, che ha appunto uno studio low cost, me ne parlò, io ero un po' scettico, poi ci abbiamo riflettuto un po' e ci siamo resi conto che l'idea poteva avere uno sbocco. Io, al di là di tutto quello che hanno detto i colleghi, con i quali ovviamente concordo, volevo porre l'accento su due aspetti, perché credo che il primo, per prima cosa, lo studio monoprofessionale è ormai ai nostri tempi. Modello tramontato, dice lei? Secondo me è proprio sì, è un modello tramontato perché i costi di gestione sono elevatissimi, quindi è indispensabile per noi medici associarci e cercare di dare un servizio qualitativamente molto alto. E come si fa? semplicemente occupandosi di una branca odontoiatrica, per cui ovviamente avendo chi fa solo cure canalari, traduco, devitalizzazioni, ovviamente le fa molto meglio di chi ne fa una al mese e la farà in un tempo molto più rapido. Dottor Ruffino, io purtroppo non ho più spazio, ricordo però il vostro centro, Centro Odontoiatrico Catanese, www.centrococ.com. questo no, oltre a questo non posso fare perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. C'era Alberto da Bologna che ci voleva raccontare che è andato in Ungheria e si è trovato molto contento. Dottor Pedone, a lei assegno una conclusione per la trasmissione di oggi, le do 30 secondi di tempo. Qualcuno che va in Ungheria si trova bene, ci sono dei bei centri e qualcuno no. È difficile saperlo prima, come è difficile capire, percepire qual è la qualità vera. Io personalmente non andrei a farmi trapiantare un rene in Ungheria, ecco, non ci andrei. Esatto. Solamente, banalmente per quello che potrebbe accadere dopo, per la continua assistenza di cui c'è bisogno, non per proprio demonizzare in assoluto la cura che si riceve nei paesi all'estero. www.amicodentista.com, c'è un numero verde, l'800 088 315, quindi adesso saranno contenti coloro che dicono che vi ho fatto pubblicità, io ve l'ho fatta. Buona giornata, a domani. Buona giornata.